2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 28 febbraio 2009, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it. Tutte le informazioni per riascoltarci online sono appunto sul nostro sito internet, entrate nelle pagine di 2024 e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al nostro servizio podcast. È una modalità nuova, una modalità se volete anche utile e divertente per riascoltare il nostro programma, per riascoltare altri programmi, anche contenuti audio di altre radio, addirittura nemmeno di radio. Ci sono persone che vogliono produrre contenuti radio, li mettono su internet e li mettono a disposizione di chi poi li vuole riascoltare grazie a questi servizi chiamati podcast. Di fatto si tratta di un file MP3 che viene scaricato, ma in maniera automatica oppure anche manuale con un software adeguato. Insomma, online trovate molte informazioni. Se qualche cosa non vi è chiaro, come fanno ogni settimana molti ascoltatori, scriveteci una email. Che cosa è successo questa settimana? Alcuni dei 2 milioni di utenti di Gmail, la Gmail è la posta elettronica di Google, 2 milioni sono quelli in Italia, si saranno accorti che martedì per quasi 3 ore c'è stato un blackout del servizio appunto di posta elettronica di Google. Ma il problema non è stato circoscritto all'Italia, l'incidente è stato globale, ha coinvolto quindi 127 milioni sono gli utenti della Gmail in tutto il mondo e si tratta del primo importante stop per questo ormai popolare servizio di posta elettronica che è nato nel 2004, in pochi anni è diventato un servizio molto utilizzato. Un blocco che è stato dovuto ad una procedura di manutenzione andata male, almeno questa è la motivazione ufficiale, e che segue un altro incidente che il 31 gennaio aveva bloccato per 40 minuti l'accesso al più grande motore di ricerca su internet. Alcuni non si saranno sicuramente accorti del disservizio, altri non ci hanno dato molto peso, effettivamente uno potrebbe dire vabbè che problema c'è, per una mezza mattinata non ho potuto vedere la posta elettronica. Per molti altri invece è stato un po' come rimanere senza acqua o senza corrente elettrica, perché con la Gmail e con il set di servizi per l'ufficio che sono collegati alla Gmail molti ci lavorano. E quindi dove sta il problema, potremmo dire? Beh, Google vorrebbe convincere molte aziende ad abbandonare sistemi come Microsoft Office e propone proprio come alternativa a queste suite da ufficio da installare sul proprio computer, propone come alternativa Gmail assieme alla sezione chiamata Documenti, dove ci sono fogli di calcolo come Excel, altri strumenti per l'ufficio simili ad esempio a Word per scrivere documenti. Insomma, un disservizio come quello di martedì è grave, perché se un'azienda avesse come unico strumento di produttività quello proposto da Google, quindi online, gli impiegati quella mattina sarebbero rimasti per quasi 3 ore a guardare uno schermo con un messaggio d'errore. Quindi da questo punto di vista c'è ancora un po' di strada da fare per l'affidabilità del servizio, anche se guardando il servizio durante un anno il servizio è sicuramente molto spesso, anzi quasi sempre affidabile, ma questo stop è stato criticato da molti. Questo servizio non è solo un servizio gratuito, ci sono anche clienti business che pagano un abbonamento, anche se è molto basso, poche decine di euro all'anno. Google comunque ha deciso di dare 15 giorni di servizio gratuito a questi clienti che pagano. C'è un'altra notizia che riguarda Google, perché ogni settimana ci sono parecchie notizie che riguardano Google, forse uno dei nomi più diffusi tra le notizie che ogni settimana si leggono. L'azienda di Mountain View, che sta nella Silicon Valley, nella Valle del Silicio in California, ha chiesto all'Unione Europea di poter presentare le proprie argomentazioni nella procedura antitrust nei confronti di Microsoft. Qual è il problema? Il problema sono i browser, i programmi di navigazione. Google si unisce così ad Opera e anche alla Mozilla Foundation in questa in questa causa antitrust che è stata lanciata dall'Unione Europea. Allora, ricapitoliamo le puntate precedenti. Dopo una denuncia fatta a dicembre dalla norvegese Opera, che produce un programma di navigazione su internet, in gennaio Bruxelles ha scritto a Microsoft una lettera nella quale spiega che l'azienda sta abusando della sua posizione dominante per l'integrazione di Internet Explorer in Windows, che è presente, lo sapete, su 9 computer ogni 10, insomma il 90%, forse anche più dei computer, è equipaggiato con il sistema operativo Windows, e Internet Explorer, che è il programma di navigazione della Microsoft, è incluso di default, si dice così, in questo sistema operativo. Per la Commissione europea la onnipresenza di Internet Explorer porta i fornitori di contenuti a sviluppare siti internet essenzialmente per questo programma, e questo rischia di compromettere la concorrenza e l'innovazione in materia di fornitura dei servizi. Queste sono parole della Commissione europea, è attesa una risposta per la metà del mese di marzo, quindi vedremo poi come andrà a finire questa querelle, ma non è di questo che noi vogliamo parlare, vogliamo cercare di capire perché si sta spostando sui browser, in parte almeno sui browser, i programmi di navigazione su internet, la battaglia per il controllo della rete. Per quale motivo c'è così tanto interesse verso programmi che sono gratuiti, quindi apparentemente non ci si fanno soldi? Massimo Fubini, amministratore delegato di Contact Lab. Sicuramente c'è molta attenzione sul mercato dei browser, le aziende non sono tantissime, ma quelle che ci sono sono estremamente agguerrite. L'ultima arrivata sul mercato è Google con il suo browser Chrome, e c'è molta attenzione perché attraverso il browser si fanno sempre più cose. Un tempo si poteva solo navigare e vedere qualche immagine, adesso attraverso il browser si acquista, si vedono video, si ascolta la radio digitale, si fa tutto quello che si può fare normalmente su internet. E sempre di più si fanno più cose perché i software che un tempo si installavano sul computer iniziano a essere disponibili su internet. Il concetto di software as a service. E di conseguenza il browser diventa, come dire, l'imbuto dal quale bisogna passare per poter operare sulla rete. Prima guardiamo al consumatore finale, poi guardiamo alle aziende. Per il consumatore finale che cosa cambia? Avere un programma piuttosto che un altro, al di là di alcune particolarità, ma fondamentalmente questi sono programmi molto molto simili. Che cosa cambia per noi? È una questione di preferenze. I programmi hanno al 99% tutti quanti lo stesso tipo di caratteristiche. Alcuni sono più veloci, altri sono un pochino più lenti, qualcuno ha delle funzionalità, diciamo, salva privacy più evolute, altri magari sono più evoluti in termini di interfaccia grafica o di funzionalità. È veramente una questione di preferenze, di qui si giocano anche determinate battaglie legali, siccome questi software sono tutti molto, molto simili e lottano gli uni con gli altri per cercare di avere il predominio. Qualcuno si è arrabbiato nel sapere che acquistando dei computer ovviamente magari uno di questi software lo si trova già installato rispetto agli altri. È una mera scelta del consumatore, niente di più. I software sono tutti quanti liberamente scaricabili dalla rete, sono tutti quanti, quasi tutti gratuiti, quelli di cui stiamo parlando sono tutti gratuiti, vengono spesso e volentieri aggiornati, anzi vengono aggiornati estremamente spesso, perché qualche volta si è parlato dei browser come dei punti attraverso i quali si possono creare delle vulnerabilità per il computer, quindi c'è veramente una notevole attenzione sullo sviluppo di questi pezzi di software. Cosa cambia invece per le aziende che li producono questi software? Mentre in passato era un concetto di avere uno standard di mercato e quindi di fatto creare delle barriere all'entrata, facciamo un esempio molto semplice. Nel momento in cui tutti usano Word, una persona che vuole iniziare a entrare nel mercato del lavoro non può usare un programma differente, perché significa che i file che lui va a creare non vengono letti dagli altri e lui non riesce a leggere i file degli altri. Questa era una logica un pochettino, come dire, antiquata, che però ha resistito per molto tempo. Ormai i browser sono delle entità che leggono e scrivono, anche se scrivono molto poco, un qualche cosa che è assolutamente interscambiabile. Quindi non c'è un discorso di dire nel momento in cui il mio browser è il più diffuso io riesco a fare uno standard di mercato che mi protegge per il futuro. Tant'è che quello che sembrava essere uno standard, quello di Internet Explorer, o ancora prima quello di Netscape, Netscape ha lasciato la strada a Explorer. Explorer sta perdendo posizioni nei confronti di Firefox e di Safari, i quali a loro volta hanno perso un po' di posizioni nei confronti di Chrome, e man mano che si va avanti magari il mercato potrà cambiare, anche se credo che ormai non si potrà più vedere dei cambiamenti veramente eclatanti come quelli che si sono potuti vedere in passato. Quindi la ragione, come dire, della forte attenzione da parte di Microsoft, di Google, di Apple con Safari, oppure del consorzio Mozilla con Firefox, è legata alla potenzialità del browser. Essendo il browser al centro di praticamente il 95-99% delle azioni che si fanno su web, è il punto di osservazione privilegiato di quello che può fare un utente. Non che questi diciamo software ci spino e mandino tutte le informazioni alle aziende, non è così per fortuna, però senza dubbio è un software attraverso il quale si può effettivamente vedere come una persona interagisce non con un singolo sito ma con tutti i siti, in che ora del giorno, quanto si ferma su una pagina piuttosto che un'altra, che cosa fa, che cosa scarica. E avere un pezzo di software installato sui computer degli utenti permette anche a queste aziende un domani di inviare delle proposte alle persone stesse, magari per installare dell'altro software o magari per accedere a determinati tipi di servizi. Quindi diciamo che al centro degli interessi c'è prevalentemente la pubblicità. Fino a questo momento sì, anche se la realtà delle cose mi dovrebbe smentire, perché nessun browser in questo momento è una fonte di guadagno, nel senso che nessun browser mostra della pubblicità, nessun browser sta facendo realmente guadagnare. Diciamo che il vero valore della diffusione di un browser è il fatto di avere un punto di contatto con dei consumatori, quindi avere un punto di contatto non significa monetizzarlo adesso, ma potrebbe non doverlo monetizzare adesso, può significare avere la possibilità di monetizzarlo in futuro. Quindi se io ho un punto di contatto con milioni di consumatori, ho un grandissimo valore in termini di potenzialità di comunicazione. A proposito di programmi per navigare in rete, vi segnalo che questa settimana Apple ha annunciato la nuova versione di Safari, definendola la più veloce mai realizzata. Il programma funziona non solo sui Mac, ma anche sui PC. Visto che questi programmi sono, come abbiamo detto, tutti gratuiti, ci sono, abbiamo detto, poche differenze, ma comunque alcune differenze ci sono, beh, vi consigliamo di provarli. Una settimana per ogni browser, potremmo dire, in un mese e mezzo si fanno quasi tutti i principali, e potrebbe questa prova farvi scoprire cose molto divertenti. Oltre ad Internet Explorer c'è Firefox della Mozilla Foundation, che oggi è il principale concorrente della Microsoft, poi segnaliamo Safari della Apple, Chrome di Google e anche Opera, molto interessante, quindi li potete scaricare sul vostro computer e quindi potete provare a navigare con questi programmi alternativi. Tra poco 2024, nella seconda parte del nostro programma ci occuperemo anche di smartphone. Questi telefoni cellulari che oramai hanno poco del telefono e molto del computer, e infatti molti sostengono che ci sia una convergenza ormai molto visibile tra il mondo della telefonia mobile e quello dei computer. Questo lo si vede non solo dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista tecnologico, e tra poco parleremo di un produttore tipicamente di computer che ha deciso di investire pesantemente nel mondo della telefonia mobile. Lo chiamiamo ancora così per farci capire, ma in realtà oramai, come abbiamo detto la scorsa settimana, lo potremo chiamare il mondo della mobile technology, della tecnologia in mobilità. Adesso ci interroghiamo e parliamo del rapporto tra la politica e la tecnologia. In tutto il mondo le due cose oramai si toccano molto spesso, perché la tecnologia invade molti ambiti, soprattutto quelli della comunicazione, e quindi la politica se ne occupa spesso. Questa settimana c'è stato un nuovo allarme sull'utilizzo di Skype da parte della criminalità organizzata. Bene, va detto che è dal 2002, cioè da quando esiste Skype, che si conoscono le caratteristiche di questo software, che fa da instant messenger ma serve anche per telefonare via internet. Alcuni di voi ricorderanno, le aveva raccontate anche nel 2024 Niklas Zennström, che è l'inventore di Skype. Nel caso specifico, e nel caso specifico della notizia di questa settimana, il ministro dell'interno Maroni aveva istituito un gruppo di lavoro formato da rappresentanti, pensate, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, del CNR, con l'obiettivo di trovare soluzioni tecnologiche e normative per ascoltare le comunicazioni via internet fatte da utenti indagati o sospettati, comunicazioni che avvengono attraverso il software Skype. A parte che alcuni si interrogano e si chiedono come mai, mentre si sta riducendo la possibilità di intercettazione, ci sia questo desiderio di intercettare via Skype. Ma chiudendo questa parentesi, ricordiamo che Skype esiste appunto da 6 anni, quindi perché ci si interroga oggi su questo? L'Italia ha addirittura investito del problema Eurojust, che è l'agenzia dell'Unione Europea che si occupa di giustizia. In settimana, tra l'altro, Skype ha detto di essere pronta a collaborare, anche se non è la prima volta che arrivano aperture dalla società, che lo ricordiamo è di proprietà di eBay, aperture che poi si rivelano non così complete, ma qua il problema non è Skype. Chiudiamo infatti la vicenda relativa a Skype, perché di sistemi per parlare via internet in modo protetto e crittografato ce ne sono moltissimi. Il problema è più ampio e riguarda anche la capacità delle istituzioni e dei legislatori di comprendere come la tecnologia sta cambiando il modo e il mondo della comunicazione, il modo di comunicare, il mondo della comunicazione. Saluto uno dei grandi esperti della rete internet, esperto di tecnologia, Stefano Quintarelli, bentornato a 2024. Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, innanzitutto, quanto è vero, se è vero che le comunicazioni fatte attraverso Skype non possono essere intercettate perché sono protette, come dicono gli esperti, criptate? Ma allora, intorno alle comunicazioni via Skype si è fatto un grande parlare. Qualcuno dice che le persone di Skype possano, su richiesta delle forze dell'ordine, registrare qualunque flusso. Qualcuno dice che non è vero. Qualcuno dice che sono stati fatti dei Trojan Horse, dei virus che vengono installati sul computer e intercettano la telefonata una volta che questa è decodificata. Ma in realtà questo, come dire, non è un problema che riguarda solo Skype. La voce è solo una forma delle comunicazioni. Dal punto di vista della rete stiamo parlando di numeri che viaggiano sulla rete. I numeri possono essere criptati semplicemente perché ogni computer ha in sé tutta la tecnologia necessaria per gestire la cifratura. Basti pensare che usiamo la cifratura per proteggere le nostre comunicazioni quando parliamo con il sistema di home banking, quindi quando parliamo con la banca, quando vogliamo mandare una mail riservata. La firma elettronica, la firma digitale, la posta certificata prevede dei meccanismi di cifratura, quindi la cifratura sta sui computer degli utenti comunque, e che questo possa essere usato per cifrare dei contenuti è nella natura delle cose, quindi non è un problema specifico di Skype. Una volta si controllavano le frontiere, no? I valichi di frontiera erano i punti dove di passaggio, dove da lì passano tutti, e quelli sono punti di controllo. Ecco, sulla rete l'idea di controllare tutto quello che viaggia sulla rete è proprio in virtù del fatto che le tecnologie di cifratura sono necessarie al funzionamento di tanti servizi essenziali e quindi sono presenti su tutti i computer. È un'illusione pensare di riuscire a controllare la rete come una volta si controllavano le frontiere. Quindi potremmo anche dire che nell'eventualità che uno di questi sistemi sia controllabile, cioè si riesca a trovare la chiave per decifrare i messaggi, comunque è facile ed è molto probabile che il giorno dopo venga trovata una nuova chiave di cifratura e quindi il problema lo si riproponga subito, immediatamente. Ma è ancora peggio di così, se vogliamo, perché i computer degli utenti sono molto potenti, cioè oggi io adesso sto utilizzando un Palmare che ha una potenza di calcolo che è migliaia di volte superiore al computer che avevo qualche anno fa. Ecco, quindi la potenza di calcolo è lo sviluppo dell'elettronica che fa sì che questo non sia un fenomeno arrestabile, cioè non si può arrestare. Semplicemente le persone potranno continuare a usare la cifratura, perché questa è una cosa che si usa per mille altre attività, e quindi la rete non è più un valico da dove passa tutto, bisogna andare a colpire, andare a trovare i bersagli. Cioè è un po' come noi abbiamo abolito le frontiere, no? Con il trattato di Schengen abbiamo abolito le frontiere, non possiamo più controllare i valichi le persone, però le persone, i delinquenti li pigliamo lo stesso, andando a pigliare individualmente il delinquente. Ecco, questo dovrà avvenire anche su internet, purtroppo il legislatore non ha ancora questa sensibilità. Pensa ancora che internet sia un valico, un punto di strettoia da dove si passa e che sia analizzabile. In realtà, grazie alla cifratura, non è più così, diventa una folla e bisogna andare ad essere in grado di andare a prendere la persona specifica che commette un reato ed inseguire quella. Usare tecniche di cifratura ha un costo, che decifrare una comunicazione cifrata costa di più che non andare ad intervenire sulla singola persona. Quindi mi sembra di capire che si stia perdendo del tempo a parlare di queste cose. Ma più che perdendo del tempo, purtroppo spesso e volentieri non vengono coinvolti i tecnici giusti, diciamo. C'è una parte dell'industria che produce apparati per esempio, si dice, visto che si può filtrare lo spam, visto che si possono filtrare i virus, allora si può anche filtrare il contenuto della comunicazione per vedere se c'è qualche cosa di illegale. La piccola differenza è che lo spam e i virus è l'utente che chiede di essere controllato, se invece fa qualcosa di illegale l'utente cerca di nascondersi. Quindi la domanda giusta non è se la tecnologia di filtraggio può funzionare in alcuni casi teorici, ma la domanda giusta è quanto è facile aggirare questa tecnologia di filtraggio, e la risposta è che aggirare qualunque tecnologia di filtraggio su internet è un gioco da ragazzi, ma questo perché internet nasce come progetto militare proprio con l'obiettivo di continuare a comunicare in qualunque caso. Cioè, ricordo che internet nasce come progetto militare per assicurare la continuità delle comunicazioni. Non esiste, e qui lo intendo ribadirlo molto fortemente, non esiste un modo tecnico per impedire che due utenti comunichino se lo vogliono. Il punto però non è tanto internet, è lo sviluppo dell'elettronica, quello che dicevo prima, perché la potenza di calcolo in mano alle persone è talmente grossa, è talmente alta che possono fare qualunque cosa con le loro comunicazioni. E non c'è santi. La domanda quindi non è funzionano le tecnologie di filtraggio, quanto è difficile aggirare queste tecnologie di filtraggio? Non è difficile, è un gioco da ragazzi, bisogna prenderne atto, le frontiere, i valichi non esistono più, siamo una folla, abbiamo abolito il trattato di Schengen, dobbiamo andare a cercare le persone con altri metodi quando delinquono. Stefano Quintarelli è fin troppo buono, perché dice a volte non vengono scelti i tecnici giusti. Beh, io direi a volte non vengono proprio scelti i tecnici, non vengono proprio coinvolti i tecnici. Questo è abbastanza grave e deplorevole. C'è un'altra notizia che volevo commentare assieme a Stefano Quintarelli, lo facciamo tra poco perché adesso per noi c'è una breve pausa. Siete all'ascolto di 2024, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Siete all'ascolto di 2024, il nostro programma va in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24. Tutte le informazioni sul nostro programma le trovate su internet www.radio24.it, naturalmente nelle pagine di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che esiste anche una versione digitale del nostro programma sul nostro sito internet. Al lunedì mettiamo a disposizione il file della nostra trasmissione, quindi sottoscrivendo il podcast, il servizio podcast di Radio 24, potete scaricare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione e poterlo poi riascoltare dove volete, sul vostro computer, sul lettore di file MP3, eccetera, eccetera. Stiamo parlando del rapporto a volte difficile tra la politica e la tecnologia. Certo, l'età anagrafica di molti parlamentari è molto alta e quindi il rapporto con la tecnologia è un rapporto anche recente, quindi alcuni conoscono e capiscono poco di questo mondo, ma sarebbe importante che la politica comprendesse le dinamiche di quello che sta succedendo su internet. Si dice spesso che nel prossimo futuro buona parte della democrazia, del dibattito all'interno della democrazia, si sposterà sulla rete. Continueremo tra poco con Stefano Quintarelli a commentare l'altra notizia di cui vi dicevo, ma vorrei continuare proprio su questo tema, politica e tecnologia. Non c'è solo il tentativo di intercettare Skype, di cui abbiamo parlato poco fa, a fare notizia, anche alcune proposte recenti delle ultime settimane, spesso sotto forma di emendamenti a leggi più ampie che si occupano anche di altro, che hanno come principale obiettivo quello di rendere più difficile, meno facile la diffusione delle idee, cercando di controllare di più quello che accade sulla rete internet. Ne abbiamo parlato con un esperto di diritto e di internet, l'avvocato Guido Scorza, di cui consiglio tra l'altro la lettura del blog, vi ricorderò tra poco l'indirizzo, molto utile per capire quello che sta accadendo in questi tempi. Ma sono eventi difficili da decifrare, in astratto potremmo quasi ritenerli eventi positivi, perché evidentemente la politica si è accorta che internet esiste, e questo è un fatto che può soltanto renderci felici. Il problema è che se ne è accorta e che nello stesso tempo mostra di averne grandissimo timore. Difficile capire le ragioni per le quali i politici italiani hanno paura della rete, ma il risultato finale è esattamente questo: ne hanno paura, e quindi ci sono una serie di disegni di legge o di provvedimenti che sono in corso di approvazione in queste settimane alla Camera e al Senato, attraverso i quali si delinea un orizzonte molto nitido, ed è un orizzonte che dice dobbiamo riuscire ad asportare nel contesto telematico le stesse dinamiche di controllo pressoché assolute che sono caratteristiche del mondo dei media tradizionali. C'è chi dice che però anche internet potrebbe essere tranquillamente regolato dalle leggi attuali, quindi non ci vorrebbero nuove leggi. Ma non c'è dubbio, e questa è l'idea d'altra parte che ispira il diritto civile della rete, il diritto dei contratti del commercio elettronico ormai da diversi anni, accettare la circostanza che internet è solo ed esclusivamente uno strumento che viene utilizzato da soggetti che fanno capo a degli ordinamenti giuridici ben definiti, sono cittadini italiani, sono cittadini francesi o sono cittadini inglesi, e dunque se è solo uno strumento, come non si è mai pensato di creare un diritto ad hoc, delle regole ad hoc per l'uso del telefono, non si vede perché dovremmo assistere ad una normazione di emergenza ed eccezionale per l'utilizzo di internet. Possiamo fare delle ipotesi di quello che potrebbe succedere, uno scenario, anche facendo qualche esempio molto semplice? Sì, beh, gli scenari sul tavolo sono parecchi. Il primo intanto è quello che tutti i blogger o tutti coloro in ogni caso che utilizzano la rete per diffondere delle informazioni o dei contenuti possano essere tenuti dalla sera alla mattina a rispettare le regole che nel sistema tradizionale sono imposte solo ed esclusivamente ai media, agli editori veri e propri, a coloro che esercitano l'attività informativa a carattere professionale, registrando o essendo obbligati a registrare il proprio sito presso il ROC, il registro per gli operatori della comunicazione, essendo tenuti all'obbligo di rettifica, se stiamo a quanto è previsto nel recente pacchetto intercettazioni che sta per essere approvato dal nostro Parlamento, o ancora stando a quanto si è appreso sin qui in relazione all'ultimo disegno di legge della Carrucci, addirittura obbligati a farsi riconoscere prima di pubblicare un qualsiasi contenuto in una qualsiasi piattaforma telematica. In realtà la rete è uno strumento difficile da controllare, no? Ma la rete è uno strumento giuridicamente quasi impossibile da controllare da parte di uno Stato solo, e non per un fatto eversivo o di aspirazione all'anarchia, ma semplicemente perché evidentemente fa capo limiti geografici assolutamente diversi, e in rete si confrontano cittadini che rispondono ad ordinamenti assolutamente diversi. A prescindere dal dato giuridico c'è poi il dato tecnologico, per cui tra lo scrivere una regola e riuscire poi a farla attuare in rete, ovviamente il passo non è breve, come in rassegna quello che sta accadendo in materia, ad esempio, di diritto d'autore, dove il quadro normativo è assolutamente chiaro, ma la possibilità per le major di vedere concretamente applicati quei precetti è un'operazione pressoché impossibile, perché servirebbero milioni di agenti della Guardia di Finanza dentro le case di tutti i cittadini italiani, e non solo italiani. Ad esempio, la possibilità di individuare una persona fisica che sta dietro ad un computer è pressoché impossibile. Ma direi che in realtà qui bisogna distinguere tra l'impossibilità tecnologica e l'impossibilità dal punto di vista investigativo, pratico, operativo, concreto. Tecnologicamente è probabilmente possibile arrivare intanto a quel PC, individuare l'IP di quel soggetto e probabilmente fare anche un po' di strada e, con un'investigazione di tipo tradizionale, provare a scoprire chi c'era in un dato momento dietro a un PC. Il problema è che questa operazione non è sicuramente replicabile n volte quante sono le condotte di violazione di chissà quali diritti poste in essere nello spazio telematico. Quindi non si può pensare di affidare, stando allo stato perlomeno attuale delle cose, la repressione di qualsiasi fenomeno alla individuazione attraverso indirizzo IP dei soggetti che sono dietro a un PC. È un'operazione semplicemente fallimentare sulla base del conto economico che però anche le forze dell'ordine poi devono fare alla fine dell'anno. A proposito di riforme, delle regole che oggi abbiamo come punto di riferimento, gli esperti della rete, sia gli esperti di tecnologia sia gli esperti di regole, quindi di leggi legate alla rete internet, a che cosa stanno pensando per riuscire a regolamentare in un nuovo modo la rete internet? Ma diciamo che tutti i problemi di cui si discute in questi giorni sono sempre problemi legati alla difficoltà di imputare ad un soggetto la responsabilità per una determinata condotta. Quando l'ordinamento fallisce in questo tentativo, il risultato ultimo è quello che evidentemente l'ordinamento è portato ad andarsela a prendere con l'intermediario, cioè con il soggetto con le spalle più larghe che c'è tra la condotta e il soggetto che l'ha posta in essere. YouTube, Google, piuttosto che i provider, sono un esempio eclatante di questo. Per sottrarsi a questo rischio, l'unica alternativa reale è quella di chiedere uno sforzo di civiltà, direi, agli utenti della rete, ovvero rinunciare a questo sogno dell'anonimato assoluto in cambio di quello che generalmente viene definito anonimato protetto. Accedo ad internet, mi muovo in internet attraverso e sotto un nickname, sono sostanzialmente irriconoscibile dalla parte dei più, ma laddove ponga in essere una condotta di particolare gravità in violazione di una norma di legge, l'autorità giudiziaria, e solo l'autorità giudiziaria, può accedere alla mia reale identità. E questo è naturalmente solo un breve assaggio di un dibattito molto complesso, molto lungo e che vede tanti protagonisti e tante voci parlare di questi problemi. Se volete maggiori informazioni, un buon punto di partenza è, come dicevo, il blog dell'avvocato Guido Scorza che abbiamo appena ascoltato, www.guidoscorza.it. E un altro blog molto interessante, io leggo pochi blog, quelli che giudico più interessanti, blog.quintarelli.it, il punto di riferimento di Stefano Quintarelli, un grande esperto della rete internet, al quale, come vi ho anticipato poco fa, vorrei fare un'altra domanda su un'altra notizia che abbiamo letto questa settimana che ha un po' allarmato alcune persone. Roberto Gaetano, che è membro del consiglio direttivo dell'ICANN, che è l'organismo che gestisce gli indirizzi e domini internet negli Stati Uniti, ha detto questa settimana ad un convegno che internet sta arrivando velocemente a un punto di saturazione. Entro 2 anni gli indirizzi web saranno in esaurimento e sarà necessaria una nuova architettura della rete internet. È un allarme giustificato, l'abbiamo sentito altre volte. Stefano Quintarelli. Ma allora, sono 10 anni che nel giro di qualche anno finiscono e questo sembrerebbe essere una battuta. Allora, il problema c'è, è evidente che c'è, è anche evidente che per mitigare questo problema sono state usate tante tecniche. Quando io ho cominciato c'era un'abbondanza di indirizzi IP, cioè il numero di telefono di internet, diciamo, una tale abbondanza che ogni persona che ne faceva richiesta gliene venivano assegnati un lotto, così poteva dare un numero qualunque al suo computer. Oggi te ne viene assegnato uno in momento temporaneo, nel momento in cui accedi a internet ti viene assegnato uno di questi indirizzi che condividi tra più computer. Questo è già un sintomo della scarsità, però è anche un segno che sono stati trovati dei meccanismi appunto per aggirare un po' intorno al problema. È come quando telefoniamo a un'azienda, telefoniamo a un numero che è il capofila e poi all'interno ci sono tutti gli interni, non occorre avere tutti i numeri conosciuti a tutta la rete, basta poter raggiungere prima il centralino e da lì poi successivamente l'interno. Il meccanismo, se vogliamo, è analogo. Ecco, il problema, se vogliamo, è che il proliferare dei dispositivi, perché oggi qualunque telefonino può avere un numero di internet, qualunque oggetto oggi avrà un numero di internet, e quindi dovremo passare dei numeri che siano più lunghi. Questa cosa l'abbiamo fatta in Italia, no? Quando abbiamo fatto fissa il prefisso, abbiamo allungato i numeri telefonici. Questa migrazione è prevista, cioè tecnologicamente ci sarà, si passerà da quello che è l'attuale IP versione 4 all'IP versione 6. I tempi avverrà quando sarà necessario, la tecnologia per farlo c'è tutta. Oggi costa ancora meno mitigare il problema aggirandolo. Quindi insomma nessuna preoccupazione, e poi immagino che questa migrazione avvenga di nascosto dagli utenti, cioè io non mi accorgerò, non è che diranno domani notte si ferma internet perché dobbiamo fare la migrazione a questa nuova numerazione. No, questo non accadrà. Molto bene, io ringrazio Stefano Quintarelli per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori, alla prossima. Questa è l'ultima parte del nostro programma, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, potete scriverci per qualsiasi motivo, anche per una domanda, una considerazione, una richiesta, un suggerimento o anche naturalmente una critica. 2024@radio24.it, il nostro indirizzo digitale. La scorsa settimana, parlando delle novità che riguardano il mondo della mobile technology, delle tecnologie collegate alla telefonia mobile che sta diventando un ecosistema sempre più complesso, avevamo accennato all'entrata nel mercato di Acer, che non solo produce computer PC ma ha deciso di entrare in questo mercato comprando un'azienda. Quindi perché Acer ha deciso di investire, pensate, quasi 300 milioni di dollari per acquistare E10, un'azienda anch'essa taiwanese specializzata nella produzione di smartphones? Ne abbiamo parlato con Giampiero Morbello, che è vicepresidente di Acer. Il motivo per cui abbiamo comprato l'azienda è sostanzialmente legato al fatto che strategicamente volevamo entrare nel mercato, e per entrare in questo mercato c'è bisogno di forte, per entrare in questo mercato in maniera importante, volendo arrivare a una posizione di leadership, c'è sicuramente bisogno di molta competenza. Il motivo per il quale invece vogliamo entrare nel mercato è perché è la logica conseguenza di una strategia di mobility che noi abbiamo cominciato parecchi anni fa. Il notebook è stato il nostro, l'investire sulla mobility nell'area informatica tradizionale è stato il nostro punto di forza nel corso degli ultimi anni. Abbiamo introdotto l'anno scorso i netbook con un chiaro posizionamento di internet appliance a due mani, una two hands internet appliance, e un ulteriore passo è l'entrare nel segmento degli smartphone, perché rappresentano le one hand internet appliance, ossia il mondo di internet in una mano. Gli smartphone, che in questo momento rappresentano una percentuale limitata del totale degli handset venduti, direi circa il 20%, noi facciamo riferimento a coloro che utilizzano una scheda dati, riteniamo che questa percentuale si incrementerà in maniera significativa in futuro. È proprio uno dei nostri obiettivi, addirittura stimolare la gente con prodotti che rispondano a specifiche esigenze di coloro che attualmente sono nella long tail, ossia in quelli che in questo momento hanno magari dei feature phone ma non utilizzano le basi dati, con proposte interessanti e particolarmente mirate per farli entrare nell'utilizzo degli smartphone, che in questo momento è un mercato che ancora, come dici tu, è contenuto, che però vediamo crescere in maniera significativa. Ecco, voi nei PC dite che per essere vincenti bisogna puntare sui grandi numeri, su numeri molto elevati. In questo settore quali sono le differenze? No, ma noi pensiamo che nel mercato della tecnologia in generale, e non solo in quello, la massa critica è l'elemento differenziante. Ancora un mondo dove gli acquisti, se sei grosso, acquisti meglio che se sei piccolo, e hai la possibilità di investire. Siccome le barriere all'ingresso sono che se vuoi partire devi avere 300 ingegneri, se no non parti neanche. Cioè noi ci siamo proposti come un player e abbiamo comprato un'azienda con 300 ingegneri, se no non parti neanche, quindi devi avere la massa critica per poterlo fare, e qua noi abbiamo obiettivi di diventare, ci sono 5 player importanti e noi vogliamo velocemente, e non ti dico in questo momento quando, perché dipende da una serie di fattori che in questo momento non riusciamo a vedere, vogliamo velocemente diventare fra questi primi 5. Quindi, come sentite, obiettivi piuttosto ambiziosi, tenete conto che essere tra i primi 5 principali nomi del segmento smartphones significa puntare ad una fetta di un mercato da circa 120-130 milioni di pezzi all'anno, mentre se guardiamo all'intero mercato della telefonia mobile stiamo parlando di 1 miliardo e 300 milioni di pezzi ogni anno. Sicuramente quello degli smartphones è un mercato molto ricco, perché questi sono telefoni che costano dai 200-300 euro fino ai 600-700 euro. Morbello ci ha parlato anche di un'interessante tendenza che dovrebbe consolidarsi nel corso del 2009. Gli operatori di telefonia mobile dovrebbero incrementare la quota di telefoni sussidiati. Riteniamo che si comincerà a fare subsidi molto, molto di più di quello che si sta facendo adesso, e quindi gli operatori stessi tenderanno a, diciamo, mettere dei soldi per favorire la diffusione dello smartphone al fine di poter recuperare questo investimento iniziale con il traffico dati, perché i servizi stanno cominciando a diventare interessanti. In realtà la chiave di volta poi la fa chi si gioca la torta dei servizi, e ci sono alcuni dei nostri concorrenti negli smartphone che stanno provando a coprire anche quell'anello della catena del valore. Una componente molto importante degli smartphone è il sistema operativo, e qua le cose sono, come abbiamo già detto, diverse rispetto al mondo dei PC, dove Microsoft fondamentalmente è il sistema operativo. Voi avete lanciato questi prodotti anche per, immagino, per tradizione dell'azienda che avete comprato, con un sistema operativo Windows. Per il futuro? Ma come ho detto prima durante la conferenza stampa, i prodotti che stiamo lanciando in questo momento sono sostanzialmente i prodotti che erano in fase embrionale, poi ci abbiamo messo la nostra capacità di integrazione, però sostanzialmente abbiamo preso dei progetti che erano già in essere in Glowfish, che era uno dei partner, al 100% un partner Microsoft. Io credo che Microsoft stia facendo abbastanza bene con Windows Mobile, siamo scettici, vediamo quello che succederà. Penso che è un mercato che non è, diciamo, monofornitore così come lo è il mercato dei PC, e credo anche che addirittura anche il mercato dei PC possa non diventare più monofornitore. Conseguentemente immaginati in un'area così interessante dove ci sono tecnologie interessanti non solo dal punto di vista dei sistemi operativi ma anche ad altre cose. Ci sarà una convergenza, questo porterà beneficio ai due mondi, al mondo IT tradizionale e al mondo della telefonia e smartphone tradizionale. Si mischieranno i ruoli e i player si mischieranno un attimo, così come noi entriamo in questo mercato e Samsung entra nel nostro mercato, anche gli altri anelli della catena del valore mischieranno un attimo la loro posizione. Beh, questo è un dato sicuramente interessante. La convergenza di tecnologie tipiche del mondo dei PC con quelle della telefonia mobile è così vera che il principale produttore di telefoni cellulari, la Nokia, sta valutando l'entrata nel mercato dei computer portatili, probabilmente nel segmento dei netbooks. E queste non sono solo indiscrezioni, ma parole dell'amministratore delegato Olli-Pekka Kalasvuo in un'intervista rilasciata all'emittente nazionale finlandese. Le cose si stanno appunto mischiando, la convergenza è in atto. Tanto per dirvi quanto ancora diverso però è il mondo della telefonia mobile. Abbiamo detto che qua il sistema operativo che la fa da padrone è Symbian, e quindi Microsoft con Windows non è così forte come nel mondo dei PC. Anche nel mondo dei processori, che stanno diventando sempre più importanti nel mercato della telefonia mobile, Intel ha pressoché quote di mercato irrisorie. L'architettura di riferimento nel mondo della mobile technology è l'architettura ARM. C'è il produttore ARM taiwanese che la utilizza e che la installa in molti telefonini in tutto il mondo, e ci sono altri produttori in giro per il mondo che ne sfruttano le caratteristiche. Adesso parliamo di un altro tema molto importante nel mercato della mobilità, che è quello delle mappe, partendo proprio da zero, cioè cercando di capire da dove nascono le mappe. Il lavoro non è semplice, non è nemmeno molto complicato. Ne abbiamo parlato con Cristiano Ranalletta di Naftec. Naftec è uno dei due produttori mondiali, quindi pensate quanto il mercato si è consolidato. Ci sono proprio solo due nomi, Naftec e Teleatlas, che producono gli ingredienti principali, i primi ingredienti per poi costruire le mappe. Partiamo da qua per capire come il mondo si trasforma. Il lavoro è enorme perché innanzitutto il tessuto stradale cambia di giorno in giorno, quindi diciamo c'è bisogno di una manutenzione ad hoc, ma anche il lavoro di costruzione di un paese, quindi quello che noi chiamiamo la copertura del territorio del paese, è un lavoro piuttosto certosino che vede una componente umana notevole. Diciamo, io posso sintetizzarla in questo modo: tipicamente si parte da una serie di sorgenti che possono essere fotografie aeree piuttosto che fotografie satellitari o piuttosto comunicazioni, diciamo, con gli enti amministrativi, quindi che possono portare un tipo di valore legato a delle cartografie tecniche piuttosto cartografie piuttosto datate. Poi da lì, diciamo, si fa una sorta di frullatore di elaborazione e si costruisce un primo draft, una prima versione di quella che è la cartografia. Assolutamente questa cartografia poi non può essere data così come agli utenti, ma i nostri analisti in Italia se ne contano 55, quindi diciamo questi geologi che in ogni paese, così in Italia come in Francia piuttosto che nel resto del mondo, ripercorrono la strada che poi l'utente finale percorrerà, raccogliendo e verificando sul campo tutte le possibili variazioni, piuttosto che raccogliendo degli attributi, per capirci, per esempio i limiti di velocità piuttosto che il divieto di transito, piuttosto che attributi ad hoc per settori verticali, per esempio i camionisti ed altro ancora, fino ad arrivare, diciamo, a quella che poi è la versione appunto riconosciuta e standardizzata da Naftec come un database di qualità. Quindi voi raccogliete, diciamo, una serie molto numerosa di informazioni che mettete a disposizione di chi poi in realtà crea la mappa, ma potremmo dire il software di navigazione, giusto? Sì, esattamente, diciamo, quando io menziono l'utente, diciamo, per noi quello che vediamo noi è tipicamente lo sviluppatore, diciamo, di software che utilizza la nostra cartografia per generare poi delle applicazioni che si basano su una cartografia digitale. Questo è un mercato che oggi sta esplodendo e forse il limite è la fantasia, ci si possono inventare tantissimi servizi. Volevo che ci raccontassi qualche cosa in più su i dati che sono contenuti nelle mappe. Fino a qualche tempo fa esisteva la mappa, punto. Oggi sulle mappe ci sono una varietà infinita di informazioni. Che tipo di informazioni? Sì, quello che dice è verissimo. Diciamo che in prima battuta è stato rilasciato il servizio che lo conosciamo di navigazione satellitare TuCur, no? La navigazione satellitare ha creato in qualche modo consapevolezza nei confronti dell'utente finale per tutta una serie di termini, GPS piuttosto che comunque essere localizzato, appunto mappa ed altro ancora. Quindi questo, diciamo, ha consentito poi di evolvere quel set di servizi legato appunto al concetto di localizzazione. Per esempio, diciamo, da un punto di vista di sviluppo, lavorando sul database cartografico, oggi la navigazione satellitare non è più legata esclusivamente ad un contesto, come dire, automobilistico, sebbene noi parliamo comunque di un personal navigation device, quindi un device in mobilità che comunque era associato sempre all'automobile. Oggi esiste comunque una versione evoluta del database cartografico che è specifica per i pedoni, quindi con una serie di caratteristiche che sono tipiche appunto, diciamo, delle necessità dei pedoni. Penso per esempio alle delle informazioni sul trasporto pubblico, penso delle informazioni relative a veicoli non necessariamente percorribili con l'automobile, piuttosto che guide turistiche. E quindi, ecco, diciamo, questo set di ulteriori attributi è stato integrato nel nostro database cartografico e costituisce un ulteriore prodotto che può essere poi di nuovo elaborato da chi produce software per poi rilasciarlo all'utente finale. Questo è un tema su cui torneremo sicuramente. Per oggi terminiamo la nostra puntata. Grazie a voi per l'attenzione, grazie a Luigi Borghi in redazione. Non dimenticate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Ci trovate anche su internet. Tutte le informazioni sono su www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana, sempre su Radio 24, sempre il sabato tra le 15.30 e le 16.30. Buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.